Dimmi i nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Oh, lo sapevo. Ho sempre Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Eccoci qua. In realtà vi avevamo salutato, ma siccome assestiamo il palinsesto anche per il prossimo anno, abbiamo fatto un cambio con Megaphone X, con cui ci alterniamo nei 15 giorni, e quindi chiudiamo noi quest'anno, e poi a riaprirlo appunto sarà Megaphone X a gennaio, e quindi eccoci qua. E quindi vi beccate un'altra chart, insomma. Tra l'altro abbiamo anche sfatato questo giro maledetto in cui ero sempre finito. Io, esatto, insomma, siccome voi sapete come si gioca a The Chart, se non lo sapete ve lo rispieghiamo, vi invitiamo ad andarlo a guardare sul nostro blog www.womenchart.wordpress.com, dove trovate ogni settimana più o meno, insomma ogni 15 giorni più o meno, le nostre playlist, il podcast della trasmissione che potete ascoltare o scaricare come preferite, e poi anche un po' delle connessioni, o comunque parte delle connessioni che ci hanno guidate nei vari passaggi della trasmissione. E quindi The Chart funziona in questo modo: noi abbiamo cominciato 7 puntate fa, visto che questa è la 7ª puntata, con un pezzo di Regina Spektor, e l'ultima puntata ci siamo lasciate creando connessioni tra le varie artiste che abbiamo ascoltato. Ci siamo lasciate con Nina Patterson, che appunto cantava, cantante, voce dei Cardigans, per chi non la conoscesse come solista. Patterson? Ma sì. Sai che l'ho sempre chiamata Patterson? Può darsi pure che abbia avuto un Patterson si chiama. Fidati. No, ce la giochiamo. Giochiamo. La controlliamo. Qua in diretta, che abbiamo tutte le ascoltatrici. Insomma, che possono... Nina, voce della The Cardigans, che appunto nel tempo ha anche poi fatto un po' di lavori da solista, e tra cui il pezzo che ascoltavamo, che era anche parte della colonna sonora di Boys Don't Cry. Yes, come si gioca lo scoprite, lo potete fare anche voi da casa, che detto così sembra una trasmissione seria, però è vero, lo potete fare anche voi da casa, e vi preannuncio che se tutto va bene a gennaio ricominciamo con una chart vostra, di qualcuno che ce la sta inviando, ce l'ha appena inviata, e quindi di questa cosa siamo molto molto contente. Vi invitiamo a prendere esempio e coraggio e giocare anche voi. Sul nostro blog c'è il form su come si fa, sono 6 canzoni, cioè 6 passaggi, ve ne abbiamo abbonate 2, visto che noi lo facciamo in 2, quindi per noi sono 8, ma voi che lo fate da casa, se lo fate solo in compagnia, comunque sono 6. Dai, giocate pure voi con noi, e poi chissà, magari metteremo dei premi, tipo a quella che ci piace di più regaleremo la cassettina della The Chart che piace di più a lei, giocando a questo gioco. Gioca anche tu. Piano piano ci inventeremo dei regali. Ci inventeremo delle cose. Rettifico, hai ragione, Nina è figlia di Pers, non è figlia di Pater, quindi insomma mi ho confuso le famiglie da cui venivano. Vabbè, non è un problema. E quindi... siccome non interrompiamo mai questa catena di connessioni, cioè quindi questa rete non la interrompiamo mai, come diceva Donna, l'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato la settimana scorsa è stato appunto un pezzo di Nina Patterson, voce più conosciuta come voce dei The Cardigans. Infatti la band che si era formata nel 92 addirittura, e che in teoria è ancora in attività, anche se l'ultima cosa che ha fatto è un tour live l'anno scorso in giro per il mondo. È conosciutissima per la canzone My Favorite Games con Erase Rewind, il cui video del primo singolo era molto molto molto interessante, era carino, mi ha fatto bene. E loro però, diciamo che la svolta della carriera del gruppo arrivò quando, come al solito, c'entra di nuovo il cinema. Quando la loro canzone Loveful finì nella colonna sonora del film, tra l'altro, di cui che faceva parte di una delle connessioni della settimana scorsa, che era appunto Romeo più Giulietta, sennò poi qua ci si arrabbia. E Romeo più Giulietta, e questa canzone in realtà ebbe, aprì un po' la pista al gruppo che piano piano venne conosciuto, quindi tutti cominciarono a chiedersi ma chi sono, e poi esplosero col successo di Gran Turismo l'anno successo, cioè un paio di anni dopo, quando incisero il disco. E questa canzone però evidentemente è rimasta nelle corde di tanti, è una bella canzone, quindi come ogni bella canzone alla fine ci hanno fatto delle cover. Molto molto semplicemente ci hanno fatto delle cover, e una delle artiste che ha cantato una cover di questa canzone è appunto Kat Edmondson, che è l'artista di cui vi sto per far ascoltare un pezzo. È una cantante americana giovanissima, almeno per me lo è, perché io quando ormai leggo 83 mi penso comunque sì, dai, è giovanissima, no? Giovanissima, Houston, Texas, chissà perché quel luogo così apparentemente pesante sforna da Janis Joplin in su una marea di persone, artiste veramente interessanti e importanti. E insomma, il suo album di debutto, che si chiama Take to the Sky, era un album con una, diciamo, una, era jazzato, cioè erano delle cover riarrangiate con insomma una musica jazzata, e tra queste cover appunto jazzate c'era la canzone dei The Cardigans, erano cover pop, diciamo, rilette in chiave jazz. E questa insomma era la mia connessione tra i Cardigans e, cioè comunque tra Nina Persson e Kat Edmondson, e vi faccio ascoltare un pezzo del suo, ha inciso due dischi, uno era questo qui appunto con gli standard e i pezzi pop risuonati in chiave jazz, e un altro che è Wide Low, è quello da cui vi faccio ascoltare un brano che si chiama I Don't Know. What it is about you that makes me love you so, I don't know. And when you're holding my hand, something happens to me, I feel it way down low. And I don't know how I can hold you, because you are so fine. And I thank my lucky stars for the day I made you mine. And if you ever go, I'd be lost without you, and it would hurt me so. Eccoci qua, sì. Molto bello, un bellissimo arrangiamento, stavamo dicendo durante il pezzo di questa Kat Edmondson. Io pensavo che la connessione fosse il son del cognome che... No, invece era molto molto molto carina. Tra l'altro appunto le cover spesso ci aiutano, insomma, a viaggiare quando abbiamo difficoltà, quando siamo in di fretta, perché a volte insomma le trasmissioni come questa, insomma, a volte abbiamo meno tempo del previsto, quindi le cover ci aiutano tantissimo. È molto bello anche lo scambio di sonorità, insomma, il voler reinterpretare il pezzo di un'altra artista. Beh, la mia connessione da Kat Edmondson alla prossima artista che ascolteremo finalmente, perché insomma voi sapete che io ho un piccolo crush per lei da un punto di vista musicale e anche come donna, come artista, che è Amanda Palmer. Sentite come parla giovane, un piccolo crush, un piccolo, diciamo, come si può dire, un innamoramento per Amanda e per le cose che fa e per come le fa, insomma, anche per lo spirito con cui le fa. Quindi insomma riesco finalmente a trovare una connessione, tra l'altro un tipo di connessione di cui qualche volta vi ho parlato, perché Kat ha pubblicato, diciamo, si è fatta finanziare il suo secondo album un paio d'anni fa attraverso il sito Kickstarter, che è appunto un sito di crowdfunding, e lei aveva bisogno di $50,000 per mettere su diciamo la produzione, la parte finale di questo album. È riuscita a farlo, a farsi finanziare, anzi ha superato la soglia dei $50,000, e quindi insomma è un progetto che ha avuto un successo in questo tipo di modo per trovare i fondi. Ma beh, sta funzionando tanto in America. Funziona tantissimo. Sì, purtroppo delle indie band che si auto... Ce n'è un'altra, mentre sempre cercavo connessioni, ho visto che il disco era in progettazione stavano cercando i soldi col crowdfunding. Sì, la cosa bella di Kickstarter, ora si stanno un po' diffondendo anche in Italia questi siti, però insomma questo rimane ancora abbastanza centrale, molto molto usato in tutti appunto i paesi. L'unico problema è di avere qualcuno che abbia un conto e comunque sia residente negli Stati Uniti, poi insomma tutto il resto della band o degli artisti possono essere di tutto il mondo. E sì, ma ci si finanzia qualsiasi cosa, ma anche band piuttosto note, insomma, riescono a farsi finanziare in questo modo, magari il video che hanno pensato e per cui non riescono a trovare i fondi, o la casa, insomma, l'etichetta non gliele vuole dare. Si riesce a produrre spettacoli, si riesce a produrre veramente qualsiasi cosa. Che ne so, ci sono un sacco di un progetto molto interessante, per esempio, di una vecchia band New Wave degli anni '80 che diciamo di cui hanno ritrovato in uno studio di registrazione i nastri di alcune cose che non sono mai uscite, e i tipi dello studio stanno cercando i soldi per ripulire i nastri e pubblicare, insomma, questi lost tapes, come si chiamano, insomma, che ogni tanto si ritrovano. Insomma, tornando ad Amanda, uno dei suoi progetti, cioè appunto l'album che poi è uscito quest'anno con la Grand Theft Orchestra, che insomma, per cui lei aveva in mente di fare tutta una serie di cose, l'artwork, insomma, questo libro di accompagnamento, eccetera eccetera, e per cui aveva chiesto $100,000 come, diciamo, obiettivo da raggiungere per questo finanziamento. Lei ha tirato su $1,192,793, quindi sta a posto, insomma, per i prossimi 7 dischi. Sì, esatto. Infatti con questo si è finanziato anche il tour, eccetera eccetera, insomma ha fatto tutto il progetto che aveva a che fare, quindi insomma veramente un successo strepitoso. Bene, Amanda, insomma, io ve ne parlo spesso, vi ricordo le cose che fa, sapete, insomma, carriera fino al 2008 con Dresden Dolls, quindi anche una grandissima, un bellissimo progetto di, diciamo, burlesque, cabaret e teatro, oltre che appunto una performance musicale. Poi nel 2008 esce questo bellissimo album da solista, il suo primo da solista, che si chiama Who Killed Amanda Palmer. Insomma, è da questo album che ho scelto Runs in the Family, che tra l'altro appunto è un pezzo con un testo molto bello che parla di quanto le famiglie e i rapporti con le famiglie e la pressione che a volte le famiglie fanno sui loro figli crea dei casini assurdi. Amanda Palmer. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born with it. My friend has fight, he gets shakes in the night, and they say that there's no way that they could have got it. In time takes its toll on him. It is traditional, it is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, the family that carries me to such great lengths to open my legs up to anyone who have me. It runs in the family, I come by it honestly. To what you walk is who knows, it might fill me up. Me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me she's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests, and they guess it has something to do with our grandmothers, grandmothers, grandmothers, Civil War soldiers who badly infected her. My friend has maladies, rickets and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, stripped in the city, and shares all her best tricks with me. Well, I'm well, well, I mean I'm in hell. Well, I still have my health, at least that's what they tell me. If wellness is this, what in hell's name is sickness? But business is business, and business runs in the family. We tend to bruise easily, bad in the blood. I'm telling you, cause I just want you to know me. Know me and my family, we're wonderful folks. But don't get too close to me, cause you might knock me up. Me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up. Mary, have mercy, now look what I've done. But don't blame me, because I can't help where I come from. And running is something that we've always done well, and mostly I can't even tell what I'm running from. I'm from the pity, from responsibility. Run from the country and run from the city. I can run from the law, I can run from myself. I can run from my life, I can run into debt. I can run from it all, I can run till I'm gone. I can run from the office and run from the cause. I can run using every last ounce of energy. I cannot, I cannot, I cannot run from my family. They're hiding inside me, corpse is alive. Got it if you like, but just don't tell my family. They never forgive me, they say that I'm crazy, but they would say anything if it would shut me up. Eccoci qua. E tanto ci facciamo fregare dalla fine delle canzoni. E questa era Amanda Palmer. Vabbè, dai, ormai secondo me le ascoltatrici delle martedì autogestito la straconoscono, perché dopo che ce l'hai fatta conoscere tu, noi la mettiamo ripetutamente durante, diciamo, le nostre ore di palinsesto. Quindi, beh, brava. È cosa buona e giusta. È cosa buona e giusta, esatto. E chiaramente, che a me viene in mente che la sua musica è quello stile tipo art rock, perché poi comunque anche loro poi pensano tantissimo, nonostante l'era del digitale, al packaging piuttosto che alle immagini della copertina. E poi ragionano sui live set, sui live show, per cui vabbè, certo, poi lei ha appunto questo passato da burlesque, comunque da performer, sì, molto forte. E chiaramente anche lei ha collaborato in quel circuito con tantissime artiste che magari da noi non sono tanto neanche arrivate, tra cui ho lasciato così perché c'era la sfida d'appalto. Tra cui Kim Beckbinder, se si dice così, questo non lo sapremo mai, con cui ha collaborato, tra l'altro, una delle ultime collaborazioni più recenti nel 2011, nel singolo appunto di quest'artista, Such Great Hakes. Lei, tra l'altro, anche lei appunto ha un duo con la sorella, che si chiama Zoe, ovviamente Beckbinder, chiaramente il cognome è lo stesso, se è la sorella. E loro due appunto insieme hanno un duo dove anche loro facevano, insomma, questi spettacoli di cabaret in California, quindi anche loro molto... Secondo me è un po' la scena che in qualche modo ha navigato e rubato Lady Gaga. Sì, in qualche modo, questo anche il burlesque, appunto il cabaret molto, cioè con la stereotipizzazione dei ruoli molto forte, però da gioco, da cabaret, per diciamo distruggerli. Anche i vestiti da scena molto circensi, quindi insomma molto chiassosi. Esatto, esatto. E insomma lei aveva questo duo con questa sorella, e io mi sono interessata alla sorella. Non fate state già pensando male. È successo. No, perché si chiama come la mia gatta. che voi direte, vabbè, che cazzo ce ne frega, però no, sapete che no. è un gioco di connessioni, e chiaramente quindi io ho detto, oh guarda, si chiama Zoe, e poi ho visto che anche lei da sola poi ha inciso delle cose, anche un disco, diciamo quell'underground che da noi difficilmente arriva, e quindi ho pensato di ascoltarcela perché ho trovato questa canzone sua che si chiama Saltwater, che tra l'altro ha un video molto bello che ricorda un po' il video di come si chiama la canzone che ha avuto un sacco di successo, Maya, come si chiama lui? Vabbè, adesso non mi viene, quando mi verrà ve lo dirò. Il video di lui che viene, che si pittura tutto. Insomma, adesso non ci viene. Adesso non ci viene, ma adesso mettiamo la canzone così loro l'ascoltano, noi poi gli raccontiamo il resto della storia. Insomma, Zoe Buchbinder, Saltwater. At Jupiter, I fell 50 feet into salt water. Scrambled to hold on, nor be lost forever. You said it was for my own sake. Watched as I was swallowed in the wake. I know once, but still I'm so surprised. He threw the stone and it skipped a million times. How was I supposed to know I would end up in the underdog? Rope was hanging off the back of this freight liner so that I could catch myself and crawl inside her. I woke and I was alive before I knew if I had survived. I knew Eccoci. Niente, ci sorprendono sempre così. No, sì, vai, hai trovato il video, vai. Certo, l'ho trovato, il video era di Goti e I Used to Know. Penso che molti di noi l'hanno visto, anche perché ha girato tantissimo sia la canzone che il video. In realtà pure questo di lei ha qualcosa che lo richiama, questo gioco dei corpi, anche gli scatti in sequenza fotografici, per cui vabbè, insomma, andatevelo a vedere, è carino. carina pure lei. Lo linkeremo sul nostro esatto, blog. Lo linkeremo nelle spiegazioni del nostro viaggio. Così, insomma, visto che nei link trovate magari biografie piuttosto che alcuni video particolari che ci hanno ispirato, oppure magari dei siti veri e propri artisti. Delle artiste, insomma, quindi trovate tantissimi riferimenti che poi per voi possono essere invece un aggancio per qualcosa che vi può piacere, magari che vi cambia la vita. Chi lo sa, insomma, un artista che vi cambia la vita. Insomma, ci sono artiste che ci cambiano la vita. Manco una. Ce ne sono tante e nelle nostre chart ogni tanto vengono fuori. E beh, quindi parlavamo per Million Lies, parlavamo anche di queste due sorelle che si mettono insieme e fanno questa band che appunto magari da noi non sono tanto famose, però insomma invece girano parecchio, sono abbastanza note in questo ambiente. Loro, come dicevi tu stessa, sono molto conosciute per cercare di mescolare diciamo elementi circensi, elementi del cabaret alla musica folk, insomma, almeno come The Million Lies. E poi la cosa molto figa di loro due è che hanno entrambe una loro carriera solista, pur rimanendo legate in questa band. Insomma, tante sono le diciamo le band con cui insomma poi fanno altre cose. E quindi questa cosa delle sorelle, insomma, in qualche modo a me mi ha un po' diciamo attirata per cercare un legame. Ho avuto dei diversi percorsi che non ho seguito, perché pensavo alle sorelle famose, no? Sorelle che lavorano insieme. Ad esempio, tu una volta hai messo il trio Lescano, che addirittura insomma sono in tre, oppure pensavo un passaggio che forse insomma mi conserverò per un'altra volta, era quello di Loredana Bertè e Mia Martini, no? E comunque sono due. Guarda, potevi stupirci con effetti speciali e mettere la tua prima canzone italiana. Ecco, vedi, invece me la sono scampata così. Oppure che so, le sorelle Minogue, per esempio, che da noi sono meno famose come sorelle, ma in realtà mi raccontavano che in Australia la sorella piccola di Kylie è più famosa, insomma, è più conosciuta a livello australiano di quanto non sia invece nel resto del mondo. Ma anche che so, Beyoncé e Solange, che sono due sorelle abbastanza famose nell'ambito della musica pop. Oppure pensavo che so le sorelle Fontana, che insomma erano sorelle stiliste che hanno lasciato un segno nella moda italiana, le sorelle Bronte, Vanessa Bell e Virginia Woolf, insomma ce n'è in tutti i campi, quindi insomma sorelle, ho pensato, leggendo qualche giorno fa insomma un giornale, ho letto che è morta, pare si sia suicidata la Kate Berry, che è diciamo una fotografa e sorella, figlia di Jane Birkin, anche lei, e sorella, bravissima fotografa tra l'altro, insomma, ha lavorato per tantissime riviste, e sorella di Charlotte Gainsbourg. Quindi ho pensato, beh, a me lei piace molto, insomma, Charlotte è un personaggio molto interessante, molto particolare anche, insomma, oltre ad essere una donna meravigliosa, e sia insomma questa carriera lunghissima, insomma ha cominciato nell'84 a fare l'attrice, insomma la troviamo in tantissimi film che abbiamo visto, penso ultimamente Melancolia, quello di Lars von Trier, c'era anche lei, insomma, e tantissimi, insomma ha una carriera veramente lunghissima da un punto di vista cinematografico, e dall'86 anche insomma ha cominciato a incidere delle cose, alcune belle, alcune meno belle, insomma. Penso certo che negli ultimi anni a incidere si porta dietro un cognome pesante, come al solito, come musicista, come cantante, sì, in effetti sì. E quindi insomma dall'86, l'anno in cui uscì il suo primo album, e poi insomma negli anni un po' più o meno a distanza di un po' di anni tira fuori sempre qualche progetto interessante. Per esempio nel 2009 uscì questo IRM o IRM, se vogliamo, che insomma con cui lavorò insieme a Beck, che secondo me è un disco interessantissimo di quegli anni, insomma c'erano molti pezzi che avrei potuto mettere su. E invece vi faccio ascoltare appunto di Charlotte Gainsbourg un pezzo tratto dal suo album del 2006 che si chiamava 5:55 e si intitola The Operation. Free. here on the cutting edge of science. Non c'ha sorprese stavolta. No. Io sono troppo curiosa di capire come sei arrivata al nodo connessione, perché veramente cioè, non ci sarei mai e poi mai. Cioè, quando me l'hai sparata, io ci sono rimasta proprio veramente. Come ci sono arrivata? Mo te lo racconto. Intanto, qual è la mia connessione? Dilla tu, dai. Facciamo questa. Te la sei persa? No, tu dilla. Sei arrivata alla signora cantastorie, cantantessa, si può per dire, eccellenza. Perché nel suo caso è proprio una cantantessa, Rosa no. Balisceri. Come ci sono arrivata? Ci sono arrivata dal cinema. Al cinema, in realtà sì, ci sono arrivata per vie traverse, cioè nel senso che appunto dicevi tu prima che lei prima di essere comunque cantautrice ha anche partecipato a numerosi film, e tra i film a cui ha partecipato c'è un film di Emanuele Crialese che ha avuto un sacco di premi, un giovane regista, ma non so se giovane, comunque sì, un regista diciamo un giovane italiano, nel 2006. E aveva fatto questo film che si chiama Nuovo Mondo, che raccontava appunto quando noi andavamo in giro per il mondo a cercare una vita migliore e un futuro diverso, che cosa di cui molto spesso ci dimentichiamo. E la colonna sonora di quel film in realtà era praticamente composta da un cantautore siciliano, era quasi tutta in siciliano, a parte due pezzi di Nina Simone, poi c'era lui che aveva composto, insomma, riarrangiato la colonna sonora del film, e quindi l'atmosfera era molto siciliana. E quando mi è venuto in mente Casa Mia, mi è venuto in mente Rosa. È inevitabile. Sì, sono giusto. Io la connessione. Esatto. Oggi è una sorta molto, molto personale. Molto prima personale. La tua gatta, poi la tua terra. La mia terra, tra l'altro, sperando di poterci tornare, perché a quanto pare la mia montagna, non so se qualcuno ha letto le notizie, sta facendo le bizze. Ieri hanno chiuso l'aeroporto. Non sai se a Natale riuscirò ad andare a casa. No, speriamo di sì. Ma io ce l'ho di fronte, poi l'amo tanto. Penso che vivere ai piedi di un vulcano attivo. Esatto. Sottolineo attivo. È un'esperienza fantastica. Io la vedo eruttare da casa mia. Ce la vedo quando di notte va con le lingue di fuoco. Comunque è uno spettacolo della natura straordinario. Vabbè, una cosa che dà un carattere a una terra totalmente diverso, immagino, no? Nel senso che comunque avere crescere sì. Con insomma un fenomeno della natura che però è lì, è vivo, insomma, e lotta insieme a te, penso sì, che sì. Ti forma il carattere, no? E poi è veramente vivo, cioè nel senso la montagna è veramente viva, nel senso che parla anche, suona, cioè l'Etna suona, intanto fa dei boati, c'è qualcuno che si spaventa, dipende come la prendi, però sì, insomma, ma tendenzialmente è buona, sì, ne ha fatti di anni nella storia, per carità, all'inizio del Novecento ha tirato giù tutta Catania, però gli ultimi anni fa eruzioni abbastanza... che si contengono, abbastanza contenuti, non fa danni a quantomeno non alle persone, anche perché è un tipo di vulcano che non ti dà il tempo di scappare, come si dice, quindi poi no. E quindi sì, gli elementi terra e fuoco sì, mi appartengono, e lei è una delle cantrici appunto della Sicilia, nonché probabilmente forse la prima donna a imbracciare la chitarra in Italia e a cantare in italiano, comunque non solo, è anche in dialetto. E la canzone che vi metto è proprio siciliana, nel senso è Cutuludisse praticamente, Chi te l'ha detto, ed è una canzone d'amore, perché la prima strofa è: chi te l'ha detto che ti devo lasciare, fiato del mio cuore, l'amore mio sei tu. La morte e no questo dolore, ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'è del lungo cuore, l'amore mio setto, ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'è del lungo cuore, l'amore mio setto. Il cuore mi scricchia, picca, picca, picca, picca, ai, ai, ai, ai, moro, moro, moro, moro, cielo di luma cuore, l'amore mio sento, ai, ai, ai, ai, moro, moro, moro, moro, cielo di luma cuore, l'amore mio sento. Atto schifosa che sta scordando mia, baci facemo ogni carezza mia, ciato di l'arma mia, l'amore mio setto, baci facemo ogni carezza mia, ciato di l'arma mia, l'amore mio setto. La la la la la. Eccola, grandissima. Che meravigliosa voce, esatto. Che meravigliosa voce, che meravigliosa interpretazione, insomma, anche moltissimi pezzi tradizionali che poi lei aveva ripreso nelle sue esibizioni, ed è una di quelle artiste che è diventata famosa da grande, insomma, sì. Ce ne sono un po' nella storia, Cesaria per esempio una di quelle, visto che lei ha avuto una vita, insomma, piuttosto complicata, ha passato un po' della sua vita in carcere per diverse ragioni, insomma, si è vista molto brutta, ha avuto una vita difficilissima, ha fatto, insomma, ha faticato tanto nella sua vita. È un'altra artista che io collego, appunto, ho collegato a Rosa Balestrelli, di cui abbiamo appena sentito questo bellissimo pezzo, è Malvina Reynolds. Malvina Reynolds è stata una cantautrice, un'attivista americana, insomma, lei è nata nel 1900, morta negli anni 70. Anche lei è arrivata al successo, insomma, piuttosto in tarda età, anche perché intanto si era, a differenza di Rosa che aveva fatto una vita un po' difficile, intanto lei si era laureata, dottorata in filosofia, insomma, si era presa un po' di tempo per fare le battaglie, anche per acculturarsi, ed è appunto una folk singer che diciamo appartiene un po', anche se da adulta, perché ovviamente aveva già 60 anni negli anni 60, al movimento, insomma, folk di cantautrici e cantautori che utilizzavano la musica per raccontare delle storie che avessero una valenza e una forza politica. E diciamo che la canzone che in qualche modo rappresenta Malvina nel mondo è questa canzone che vi farò ascoltare, che si chiama Little Box, Praxis, che tra l'altro insomma fu resa famosa dall'interpretazione di Pete Seeger, non tanto da lei, poi si riscoprì la sua versione originale e da autrice anche del pezzo. A Little Boxes è una canzone bellissima, secondo me, nella sua semplicità perfetta, ed è una canzone, diciamo, che prende in giro quello che insomma erano i complessi residenziali costruiti negli anni 50 e 60 dalla media alta borghesia, che erano fatti tutti appunto a boxes, a scatole, praticamente, con queste casette tutte uguali, una in fila all'altra, con il vialetto davanti, un po' quella che guardiamo, no, nei film anni 50 americani, tutti molto con le stesse macchine, che si svegliano la mattina alla stessa ora, fanno colazione con gli stessi cornflakes, eccetera eccetera. Quindi questa, diciamo, questo conformismo terribile e terrificante che era proprio di quegli anni. E Malvina, appunto, con la sua ironia e con la sua forza anche nello scrivere, un giorno che con il marito e la figlia in macchina passa attraverso uno di questi complessi, dice al marito: senti, devi guidare per un'altra mezz'oretta perché intanto scrivo questa canzone. Quindi mentre faceva davvero un giro in mezzo a queste little boxes, si scrive questa canzone, Malvina Reynolds. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Voilà. Voilà. Adesso non mi potrei più rispondere. perché noi, mentre vanno le canzoni, ovviamente in studio chiacchieriamo. E questa canzone è stata, a quanto pare, io l'ho scoperta in realtà con te stasera, perché poi l'ho cercato, ho visto che ci sono una quantità di cover infinite. Ho capito che è carina, però, ma perché? Perché tutte queste cover? E Donna mi raccontava che la serie televisiva Weeds, che si è conclusa l'anno scorso, ne hanno fatte 8 stagioni per un totale di 102 episodi, andata in onda dal 2005 al 2012, è una serie televisiva chiamata commedia nera, ambientata in una parte immaginaria della California, e questa canzone praticamente è l'inizio della serie, cioè la sigla, immagino, della sì, serie, sì, perché io non l'ho vista, la sigla della serie. E ogni anno, al primo anno, hanno messo l'originale, sì, esatto. E poi mano a mano chi si è cimentato nei secoli dei secoli, fino a quando non è finita la serie, l'ha ricantata. E tra l'altro stavamo dicendo prima che il testo della canzone è chiaramente molto ironico, magari proviamo a postarli tutti e due, sia quello di Rosa Balistrera che questo sul blog womenchart.wordpress.com, così se ve l'eravate scordato ve lo ricordiamo. Sono le 18.05, siete sempre in ascolto del martedì femminista e lesbico autogestito, questo è The Chart, diamo un po' le coordinate, magari qualcuna si è messa all'ascolto in questo momento, e stiamo per finire il nostro viaggio di oggi. Insomma, la connessione tra Malvina Reynolds e Peggy Lee, che è la canzone che vi metterò, che dell'artista che vi farò ascoltare, a Dudley Song, è proprio questa serie televisiva. Nella sua prima stagione, nella colonna sonora della prima stagione, c'era un pezzo di quest'altra grandissima artista dalla carriera lunghissima, che è Peggy Lee. Abbiamo un problema con Peggy Lee, di cui, siccome stiamo parlando, delle nostre chiacchiere non troppo interessanti, Peggy Lee si è fermata, ha detto vabbè, parlate voi. Intanto che cerchiamo un pezzo che sostituisca questo che non parte, intanto vi dico, Peggy Lee, lunghissima carriera, anche autrice, forse non lo sapete, ma vi ricordate Lily e il vagabondo, in titolo originale Lady and the Tramp? Ecco, e Peggy Lee non solo, insomma, ha fatto la doppiatrice in quel film, ma ha anche scritto, insieme a un altro autore di cui non mi ricordo adesso il nome, mi scuserete, visto che sto andando a braccio, e ha scritto anche la colonna sonora, insomma, alcune canzoni di quel film, insomma, quindi era una bellissima attrice, autrice, cantante, insomma, veramente un personaggio interessante, che probabilmente la nostra Pinklo ci farà ascoltare adesso in questo pezzo che abbiamo ritrovato. Eccola qui. The New Rochelle Parents Council proudly presents the Broadway Gold Rush Twins. Why don't you join the group? It's better than being a party poop. Obligato, pizzicato, guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodling song. 2, 3, 4, like it so much, I'll doodle some more. Little softer, Perry Como. Even softer, pianissimo. Say you love me with a doodling song. B, C, D, ooh, what you doodly do to me. Say you love me, really love me. Say you love me true. Say you love me, please believe me when you do. That makes two. Go together, let your boodle like the apples in the strudel. When you noodle with a doodling song, what you call a real wall. I love you. Here we go now. Let your boodle like the apples in the strudel. When we doodle with the doodling song all through. Thank you. Ecco. Anche se io... Niente, è successo un casino. Sì. Il tubo ci ha fregato e vabbè, non era, pare non sia lei, ma si capisce anche dalla voce che non è lei, e quindi vabbè, proveremo a rimediare, la mettiamo nel podcast, quindi chi ci sarà, chi ci ascolterà poi tutto questo gioco non lo capirà, però non troverà la canzone giusta. Ma è il bello anche del pensare oltre, quindi chi ascolterà il podcast avrà trovato la canzone giusta, chi era in diretta con noi si è visto questo scherzetto giochetto, però vabbè. sta. Va bene uguale, comunque la canzone era quella giusta, insomma, la magari canzone, non, sì, non era, non era sua voce, interpretata da lei, però. E, per me è stato un po' difficile, diciamo, cercare di percorrere da Peggy Lee altre, insomma, altre vie, e alla fine ho pensato che, insomma, il titolo della canzone, doodling, fondamentalmente dudo, insomma, non significa proprio tantissimo, insomma, è più se durante il suono. Sì, esatto, poi durante, sì, è onomatopeico, durante, grazie, e durante la canzone appunto ci sono questi du-du-du-di-di-di che insomma si alternano, un po' come Fammina. Esatto, per diciamo riempire, anche senza dover scrivere le parole del testo. E quindi ho trovato addirittura una lista da qualche parte sul web, adesso non ricordo dove, altrimenti ve lo direi, di qualcuno o qualcuna che si è messa a raccogliere tutti i titoli delle canzoni di tutti i generi possibili e immaginabili che hanno un titolo piuttosto, diciamo, cioè o che non significa proprio nulla, è soltanto un suono, oppure che insomma fondamentalmente è un modo di dire, in realtà non ha un significato vero e proprio. E tra tutte queste, insomma, quindi mi ho dato una scorsa, ho guardato un po', c'erano varie cose interessanti, ma poi sono incappata in questo pezzo che originariamente, insomma, scritto da Willie Dixon per Howlin' Wolf e che è stato interpretato da una delle artiste che ci piacciono di più, insomma, PJ Harvey. A un certo punto doveva entrare nella nostra, diciamo, che chart. Siamo 2-2 oggi. Sì, è vero. E che insomma è cresciuta in realtà, nonostante sia cresciuta nelle, diciamo, campagne del Dorset, in mezzo al nulla, e poi insomma faccia musica o abbia cominciato con musica piuttosto rocchettare, in realtà quando era piccola dai genitori è stata educata al blues, al jazz e alla musica, insomma, diciamo, blues, folk, eccetera. Beh, quindi si un po' sente, diverso da... però sì, soprattutto negli ultimi anni magari negli ha recuperato ultimi anni di più con la chitarra acustica, ma anche secondo me To Bring You My Love ha un'impronta blues. Mo sì, ci avrà messo, sì, le chitarre rocchettare, blues rock, sì, cioè, sì, infatti ci ha messo sopra le chitarre il basso strugge, però è de fondo è, c'è questa... lo struggimento blues rimane, è vero, lo struggimento blues rimane, you. E in qualche modo anche, diciamo, è il sospiro, sì, un po' triste, sempre un po' così nostalgico. E una appunto di queste cose che ha fatto PJ Harvey nella sua carriera, di questi pezzi che ha fatto nella sua carriera, appunto, è stata questa cover, secondo me bellissima, tra l'altro nella storia, rifatta anche dalle Pointer Sisters, quindi sarebbe potuta essere un altro aggancio, che però nella versione di PJ è veramente bellissima. Wang Dang Doodle, PJ Harvey. Boxcar Joe, we got sawdust on the floor. tell Piggy and Colin Dine, we gonna have a heck of a time. Now when the fish send fill the air, there'll be snuff juice everywhere. We're gonna get you waiting through the whole night long. All night long. All night long. All night long. All night long. All night long. All night long. All night long. Voilà. E voilà. Jay si ascolta sempre tutta, ma poi lo sapete, la nostra politica è ascoltarle tutte fino all'ultima nota o l'ultima voce che c'è. Sono le 18:16 e pensate un po', è finito The Chart. succede, torneremo a questo punto, questa volta è vero, il 21 di gennaio, e molto probabilmente torneremo con una chart vostra, di chi ci ascolta. Di questa cosa siamo molto molto contenti, altrimenti se non sarà così torneremo noi con una chart nostra. Ve la beccate. Peggio per voi, esatto, ve la beccate. Per tutti i riferimenti womenchart.wordpress.com oppure mfla.noblogs.org. Ogni tanto ci sono i podcast prima da una parte o prima dall'altra, quindi cercateli, controllate, perché mi sa che stanno su MFLA, ci stanno, sul nostro ancora no, ma dai, con le vacanze ci metteremo al pari, ve lo promettiamo. E è tutto. Il martedì continua, certo. Lo sapete, i riferimenti 06491750. Siamo qui in radio, noi del martedì, insomma, fino intorno alle 10, quindi potete contattarci se avete anche delle notizie da dare, insomma, visto che fra poco comincerà l'agenda del martedì, mfla@ondarossa.info, appunto, per scriverci e contattarci. Ci vediamo al nuovo anno, allora. Al 21 gennaio, a presto. Buon ascolto. Dimmi nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... lo sapevo. Ho sempre Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17:15 al martedì autogestito.